Queste sono le popolazioni che il Signore lasciò per porre alla prova per mezzo loro tutti quegli israeliti che non avevano conosciuto le guerre combattute contro i cananei. Egli fece questo solo allo scopo di far fare esperienza a quelle generazioni di israeliti che non avevano preso parte alle guerre contro i cananei, per insegnare loro a combattere. Erano i cinque principi dei Filistei, tutti i cananei, i Sidoni, gli Evei che abitavano sulle montagne del Libano, dal monte di Baal Ermon fino all'ingresso di Amat. Queste popolazioni restarono per mettere alla prova gli israeliti, per vedere se essi avrebbero osservato i comandamenti che il Signore aveva dato ai loro padri per mezzo di Mosè. Così gli israeliti restarono in mezzo ai cananei, agli ittiti, agli amorrei, ai perizziti, agli evei e ai gebusei. Presero in moglie le loro figlie, dettero le proprie in moglie ai loro figli e prestarono culto ai loro dei. Gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Dimenticarono il Signore loro Dio e servirono i Baal e le Asere. Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele e li mise nelle mani di Cusan-Risataim, re del paese dei due fiumi. Gli israeliti furono servi di Cusan-Risataim per 8 anni. Poi gli israeliti alzarono il loro grido al Signore, il quale suscitò loro un salvatore che li liberò. Fu Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb. Lo spirito del Signore fu sopra di lui, cosicché egli poté salvare Israele. Quando Otniel si mosse per combattere, il Signore dette nelle sue mani Cusan-Risataim, re di Aram, che fu vinto. La regione ebbe pace per 40 anni, fin quando morì Otniel, figlio di Kenaz. Ma gli israeliti continuarono a commettere ciò che è male agli occhi del Signore. Perciò questi rese Eglon, re di Moab, più potente di Israele, perché Israele aveva commesso ciò che è male agli occhi del Signore. Eglon, alleatosi con gli Ammoniti e con gli Amaleciti, mosse guerra ad Israele e lo sconfisse. Gli alleati occuparono la città delle Palme, cacciandone gli israeliti, i quali restarono sottomessi a Eglon, re di Moab, per 18 anni. Poi gli israeliti alzarono il loro grido al Signore, il quale suscitò loro un salvatore, Eud, figlio di Gera, della tribù di Beniamino, che era ambidestro. Gli israeliti inviarono per mezzo suo il tributo a Eglon, re di Moab. Eud si fece una spada a 2 tagli, lunga 1 cubito, che nascose sotto la veste, sul fianco destro. Consegnò poi il tributo a Eglon, re di Moab, che era uomo molto pingue. Quando Eud ebbe consegnato il tributo, congedò i portatori, ed egli tornò indietro dal luogo detto Idoli, che è presso Galgala, e fece dire al re che aveva un segreto per lui. Il re allora impose silenzio a tutti gli astanti che uscirono dalla sua presenza. Eud si accostò allora al re, che si trovava nella stanza di riposo al piano superiore, dove stava solo. Gli disse Eud: «Ho una parola di Dio per te». L'altro allora si alzò da sedere. Eud, portata la mano sinistra al fianco destro, sguainò la spada e la conficcò nel ventre del re. Dietro alla lama vi penetrò anche l'elsa, e il grasso si richiuse dietro alla lama, perché Eud non ritrasse la spada dal ventre del re. La lama forò gli intestini. Eud uscì nel portico dopo aver chiuso dietro di sé le porte della stanza, mettendo il chiavistello. Quando egli fu uscito, i servi del re si accostarono alla stanza di riposo e, vedendo che le porte erano serrate, pensarono che il re stesse coprendosi i piedi nella stanza di riposo ed attesero fino ad essere presi da senso del disagio, ma nessuno aveva il coraggio di aprire le porte della stanza. Infine presero la chiave e aprirono. Il loro signore giaceva a terra, morto. Mentre i servi aspettavano, Eud era fuggito. Si mise in salvo a Seira, passando dagli idoli. Quando egli giunse fra le montagne di Efraim, suonò il corno. Gli israeliti scesero dai monti per unirsi a lui, che si mise alla loro testa. Disse loro: «Seguitemi, che il Signore darà in mano vostra i Moabiti, i vostri nemici». Si mossero ai suoi ordini, occuparono i guadi del Giordano che appartenevano ai Moabiti e non fecero passare nessuno. In quell'occasione gli israeliti sconfissero i Moabiti, uccidendo circa 10.000 uomini, tutti forti e valorosi, senza che ne sfuggisse alcuno. Quel giorno Moab fu umiliato sotto la mano di Israele. La regione ebbe pace per 80 anni. Dopo di lui ci fu Samgar, figlio di Anat, il quale sconfisse i Filistei, uccidendone 600 con un pungolo da buoi. Anche Samgar salvò Israele.